vista che ho messo in terrazzo, per favore. Sì, 9 più 5. Ah, no. Basta che la radio. Un quarto e mezzo. La radio lo è, vedi un po' che ho alzato un po' il macchinino. Vabbè, guardato bene bene il segnale, poi ce lo per 10, la radio è 5 adesso. Gappa, gappa. Riprendi con, non so, c'era qualcuno che stava chiamando. Elio è, lo senti a Elio? Non so se lui sente a me, Elio mi senti o di Polo? Io sento qualcuno basso che mi ha fatto il mio nome, però non so chi sia. Elio! Eia! Mi senti con il Polo? E adesso? Adesso ti sento meglio, sì, ci sono dei fatti di segnale. Ok, dai, riprendete pure lui. E chi è Marco? No, Luca Flipper. Ah, Luca Flipper? Yeah. Ciao Luca, ti sento un po' basso, stai arrivando sul 1 con la radio bassissima. Del portatile, no? Ci sono quelle free c'è lì, fa salire e scendere, no? E quando punta la prima punta un'altra, e tu vai da come si dica che rubano un illuvio a giudito, e non ci fanno abbiare qua e là, e si cade però nell'uovo, guarda che il vicino non andava per niente, era lentissimo, tutto pieno di virus, e tu adesso mi viene a dire a me, cazzo che non tutti funzionano queste frecce, che poi con le frecce volendo si ammazza la pagina, comunque sia, io non ho mai usato quello lì, come da due mi cazzo si è attaccato, e vabbè comunque il vicino ti devo con me attessi, ma ci tu sei buffone, è una cosa ha giudito, prima tutto contento per il lavoro che gli ho fatto, e poi mi viene a dire queste cose, tutti i manuali li conosci, i personaggi, colpa di manuale, adesso manuale lo chiamo e gliene dico quattro. Dove porta al massimo? Ma, via, che elemento. Ah, non capisco, scusa adesso, non funzionava il lettore DVD, perché formattazione non me l'ha fatto fare, ho dovuto mettere il mio, uno che ero io, gli ho messo e mi ha fatto la formattazione, ok? Ma con la dischi, c'era la dischi bloccato, perché da colpo che ha preso, non lo so, comunque non andava. Allora praticamente glielo di nuovo rimesso in funzione. Di soldi, se ci voleva il tuo DVD nuovo, l'hard disk nuovo perché era danneggiato, poi senza contarci i lavori che gli ho fatto, gli ho preso 40 euro e poi non è dica tutti i musei o tastino della freccia, che prima funzionava, a parte che bugiano perché il PC era un bel lento, quando mi ci girano le spalle certe persone che si attaccano a cazzo, cioè vanno a cercare proprio il pelo nell'uovo, o là nel fanculo. Ci siamo capiti. Ma con la giornata da pagato, dai. No, mi ha dato 20 euro, mi deve dare gli altri, quando ti dà la pensione. Cavalleria, trovata troppa. Ma non mi li date, poi sei malato di cura, te no, mamma, non me li posso dare. Luca, caso strano, quando devono ritirare l'apparecchio sono tutti senza soldi. Ah, io non ci credo, io sono disoccupato, ho soldi, grazie a Dio, non sempre in tasca. Sono i ballisti, Luca. Ah, il discorso è anche questo, mi ha chiamato, a cui poteva dire guarda non ho soldi, guarda la cena, le cado voi, adesso dimmi dove si vengo, l'ho preso, sono a chiamare il computer alla veloce, cioè, ti ho messo benzina, stamattina gliel'ho consegnato io, mia madre la sono andata a portarglielo, ma cazzo ma buffumente, praticamente non so più 40 euro, ma sono 35 euro su cubichemi, per il lavoro che ti ho fatto. E quello, mi dà quale male, dimmi a me, non c'ho soldi da prima, sei volte al giorno. Ecco, no, come ci mi ha fatto, guarda come mi trovo via di là. Dito, ecco, ma perché non parlate prima, scusa? Occhio, sto lavorando, dammi la butta a me che non si travaglia, ma questo butta qua gli enni. Io mi arrangio con queste cosettine qua. Qua, gente fuori dal mondo, pane cazzo guardi dall'aria. E come stava trovando la scusa, delle 20 euro, dove le do? No, me devi dare! Come te dico, me devi dare i 20 euro? Ma stai scherzando? Cioè, cose da pazzi. Poi PC qua, PC apposta, veloce, PC è un missile. Qua, credi, Marco, è più veloce del mio. Che il mio è molto superiore a quello. Vabbè, il mio aveva qualche virus, non lo so sicuramente, però una scheggia, mi comporta prima che come accendevi quel computer, prima 50.000 pagine. Ma vaffanculo. Però poi i soldi delle sigarette magari ce li hanno, i soldi per la benzina ce li hanno, sono i futtivecci, tu devi fare pagamento alla consegna, non ce li hai, va bene, quando ce li hai ripassa il tipo del computer, così devi fare Luca. Tutti così fanno, tutti così, capisco, stanno qua, non me la cucina, vaffanculo, va. Cioè, addirittura una ragazza che conosco, sì, il lavoro era un lavoro 50-60 euro di lavoro, c'erano, non so, roba di 10.000 foto, cioè, questa qua fa tipo modello, no? Le foto, ragazzi, non so cosa cazzo guardi, c'erano queste foto da salvare, cioè, guarda, per 5 ore, tu conta salvare le foto in questa disk, poi formatare il computer, tutto quanto, male, ma ore, un po' di ore ci ho perso, poi riprendere le foto che ho messo nel mio disk e rimbuttare che ho fatto il computer, altre 5 ore, 30 euro, insomma, tu mi ha fatto aspettare, 4 o 5 mesi per questi 30 euro, ma guarda, non c'era qua su, di la disperata, che figli, non quelli non c'è i soldi, cazzo, cosa da... Io sono buono a fare una cosa del genere, è più forte di me, cazzo, sono ripagato. Ma lo facevo un tipo, ma non è, ma sono voi, che non ci vivo sto qua prima, no? Totto, gli davo subito, mica lo faceva subito, quello sì, ma gli davo subito, mica lo facevo aspettare, gli facevo lo sconto, quello sì, ma lui da più subito, non guarda l'età, io gli facevo fare la voce, non ho i soldi, ma va. La gente è così, si può vedere per ventino. Scommetto che questo ha trovato la scusa dei tasti non funzionanti, che non è vero, per non darti 20 euro. Il lavoro era 40 euro, ma ne aveva altri 20. Mi ha trovato dammi un racconto, e ma non le ho. Io dico, perché non avvisate da prima, così lo vedo un po' se fanno o meno. Cosa la faccio qua, veramente? Tu prendi se la con Manuel. Tu mi portano la lucca, cioè, ma non va sempre pagato, ho fatto sempre prezzi buoni, perché anche al fratello gliene ho fatto due, lui gli ho cambiato il monitor, gli ho tolto il formattato, lavori fatti bene, ci ho preso tempo, puliti soprattutto, sono puliti dentro, non puliti con il virus. Perciò non è che si sono lamentati, ha pagato, non si è lamentato. Vabbè, diciamo che era quello che ho fatto, non era la città, comunque, vabbè, mi è venuta, ma non è pagato. E cazzo, dico, io vengo, ce ne fa, mi fa scendere, mi fa perdere tempo. Cazzo, mi chiama a me se mi funziona il cazzino. Oh, qua, qui c'è il cazzino altissimo, ma guarda se gli funzionava, pensa tu, da quanti virus c'ha aperto. Perché fanno i siti non adatti. E magari un paio di virus erano quelli che avevo io, che usavo io. Ma non lo so, Marco. La gente anche deve capire. Ripeto, se fossi stato lavorando, non mi sarebbe fregato niente. Vabbè, aspettato. Adesso dice io in tasca. Ma purtroppo, quando uno fa un lavoro, perché è un lavoro fatto bene, perché se lui a me mi prende il computer, lo portiamo da un tecnico, gli dice la stessa cosa. Cioè non si può prendere perché quello fa il lavoro, paga le tasse e non si può. Però se vuoi vedere il lavoro che gli ho fatto, gli dice che ti ha preso anche poco. Capisci, Marco? È quello il discorso. Ma la gente non capisce. È ignorante e buco. Quello è lui. Ma non me la tutti in nulla, adesso li fa. Certo, la prossima volta ho pagato subito, solo niente. Ma conto e poi la rimanente al ritiro del computer. Sì. E poi mi ha detto no, devi venire a casa e mi fai vedere come funziona. Io ti ho detto usi voi, non è il problema, ma capito. Per prendere cosa deve fare, beh, certo. Lui ha già conosce pure al massimo. Ma se tu mi dai un PC, mi dici lui guarda, ho un problema con questo PC. Cioè tu accendi quel computer sarà via 50.000 pagine. Tu pensa tutta la moneta e la ricaricata, perché lo usano in mare in 4 o in 5. Lui, la ragazza, il fratello, la sorella, non so chi, il cognato, in 5 lo usa. Pensa tu che su computer non tu casi una marà. Ma stiamo scherzando. Adesso prendi in giro qualche musicaletta del Carmanca. Ripeto, la moglie l'ho fatta, se non mi brucia il soldi, poi non li brucia, perché me li dà. Però anche Emanuele, ma lei me l'ha detto, perché me l'ha detto Emanuele. Mi ha detto, guarda, si può pagare, Beh, cazzo, non è che, ma tu qua, là, ma... Cioè, ma la prossima volta, ce l'ha la prossima volta. Ma chi se li vuole compiere mi paga subito. Voi, adesso mi... diciamo, adesso ti do 50 euro, pagameli 30, e poi li 20 euro al ritiro del computer. Non mi dai 20 euro, prendo il computer. Ciao l'altro Luca, mi dedico al computer, dai, buona serata. Ciao Marco. Però non ha saputo niente lui. Che cosa? Di quello cosa ti hanno fregato. No, niente di niente. Niente di niente, vuol dire che ancora non l'hanno messo in circolazione. La faccio però, ce l'abbiamo tutto dentro, mamma mia, ma che erano ragazzini, ti compromettevi pure, e la parte della radio faccio la parte del tonto. Infatti. Vabbè. c'è pure bello, i clandestini bloccano la strada, vogliono la pensione da profugo, se lo racconto diciamo pure.